L'Evangelo per radio. L'amore messo in pratica. Cari amici, è stato giustamente detto che uno dei capitoli più belli della Bibbia è il capitolo 13 della prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi. Se non avete mai letto questo brano della Scrittura, vi esorto a farlo ora, perché veramente esso è ricco di insegnamenti spirituali. Se l'uomo di oggi buttasse via tutte le sue leggi sociali e civili e prendesse come codice morale e civile questo capitolo, ebbene, io sono profondamente convinto che il mondo sarebbe sicuramente migliore. Ed è per questa ragione che desidero leggere il capitolo 13 di Corinzi, però ho il desiderio di leggerlo, applicandolo in modo pratico alla vita moderna, e la lettura sarebbe fatta in questo modo. State a sentire. Se io parlassi forbitamente come un professore, se non ho amore che attira, non sono nulla. Avessi pure lauree e diplomi, e conoscessi in fondo tutti i metodi di evangelizzazione, se non ho l'amore che comprende, non sono nulla. Se anche sapessi confondere tutti i miei oppositori e le loro argomentazioni, se non ho l'amore che persuade, non sono nulla. Se avessi fede, grandi ideali e piani meravigliosi, se non ho l'amore, che si affatica, che nutre, che piange, che supplica e prega, non sono nulla. Ammesso pure che fossi pronto a lasciare tutte le mie prospettive, la mia casa, i miei amici, per consacrarmi alla carriera di sacrificio del missionario, se divento duro ed egoista. Nelle difficoltà e nelle disillusioni di ogni giorno, non sono nulla. Quando anche dessi il mio corpo, perché fosse consumato dal calore cocente dell'Africa, se non ho l'amore che cede i suoi diritti, il suo desiderio di riposo, i suoi affetti più cari, non sono nulla e nessuna virtù esce da me. Se anche sapessi guarire ogni specie di malattia, se ferisco i cuori e colpisco i sentimenti altrui con la mia durezza per mancanza di amore e gentilezza, non sono nulla. Potessi pure scrivere articoli e pubblicare libri intorno all'amore di Dio, se non pratico nella mia vita la parola della croce per mezzo dell'amore, non sono nulla. Peggio ancora, posso essere competente, zelante, puntiglioso, ben preparato e nauseare Cristo se in me non abita il suo amore. Non è mai troppo ricordare questa verità, sì, perché tutti siamo d'accordo che l'amore è una necessità fondamentale per un buon rapporto sociale. Tutti siamo d'accordo sulla necessità che bisogna amarsi gli uni e gli altri, però non tutti vogliamo dire la stessa cosa. In pratica tutti usiamo la stessa parola, ma per dire cose diverse. Ecco perché Gesù, anche lui, ha parlato sull'amore. Ha parlato dell'amore del prossimo e dell'amore che si deve avere per Dio. Infatti, riguardo all'amore che si deve avere per Dio, egli disse: «Chi ama Dio osserva i suoi comandamenti». Quindi per Gesù amare Dio vuol dire osservare ciò che egli ha detto. Pertanto l'amore è non un sentimento, quanto una presa di posizione, è la volontà di ubbidire a quello che Dio dice. E così la Bibbia, che ci esorta ad amare il prossimo, ci dice anche come si deve amare, ci dice di amarlo come amiamo noi stessi. Infatti il comandamento di Dio dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Ora, è chiaro che verso me stesso non ho dei sentimenti particolari, eppure ho sempre cura di me stesso. Quindi, il mio prossimo non lo amo perché è simpatico, perché è attraente, piacevole, ma lo amo perché è un comandamento del Signore. Lo amerò in pratica dimostrandomi verso di esso favorevole, propizio, cercando praticamente il suo bene, andando incontro ai suoi bisogni, aiutandolo. Questo, secondo la Bibbia, è amore. L'amore quindi è uno stato della volontà. Amare il prossimo non è altro che avere la ferma volontà di volere il suo bene, cercare di non essergli d'intoppo, di servirlo, di accettarlo così come esso è, con tutti i suoi difetti, e di dare la nostra vita per esso. La Scrittura ci esorta pure a pregare per il nostro prossimo. Ora, dobbiamo porci veramente una domanda. Quante volte abbiamo pregato per coloro che ci circondano? Eppure il Signore vuole che noi preghiamo per il prossimo, cioè per tutti gli uomini, e principalmente per quelli che ci sono vicini, quelli che hanno cura di noi, quelli che si interessano di noi. Pregare per il prossimo è una delle manifestazioni di amore, secondo la volontà di Dio. Un'altra manifestazione di amore per il prossimo è anche quella di riprenderlo. Sì, riprenderlo per non peccare verso di lui, per il fatto che si può insediare nel nostro cuore del risentimento, dell'amarezza, del rancore. Anziché covare nel nostro cuore questi sentimenti decisamente non cristiani nei riguardi del prossimo, la Bibbia ci esorta a riprenderlo. Quindi, quando il tuo prossimo pecca nei tuoi confronti e sbaglia, tu hai il dovere e il diritto di riprenderlo, e questo, secondo la Scrittura, è un atto di amore, poiché sta scritto che sono frequenti i baci di chi odia, ma sono leali le ferite di chi ama. Infine, il nostro prossimo deve pur essere perdonato. Una volta che è stato ripreso, una volta che esso si è pentito, tu devi perdonarlo. Devi perdonarlo come Dio ha perdonato te. Sì, se tu che stai ascoltando vai a Gesù Cristo e chiedi perdono di tutti i tuoi peccati, di tutte le tue mancanze, tu hai la promessa sicura di essere perdonato da ogni tua mancanza. Ora, se Dio si comporta così verso di te, allo stesso modo tu devi comportarti verso il tuo prossimo. Hai il dovere di perdonarlo, come Dio è disposto a perdonare te. Ma, certamente, se non hai prima realizzato il perdono di Dio, è ovvio che non riuscirai a perdonare veramente il tuo prossimo. Se ami veramente il tuo prossimo, se vuoi veramente il bene di coloro che ti circondano, prima mettiti in regola con il Signore. Prima comprendi appieno che Dio ti ha perdonato da ogni peccato, che ti ha perdonato da ogni iniquità, e allora non ti sarà difficile perdonare colui che ti ha offeso. E realizzerai veramente cosa e come si pratica il vero amore. Non si può amare il prossimo se non si ha l'amore di Dio nel nostro cuore. Noi per natura siamo profondamente egoisti e perciò non siamo in grado di amare. L'Apostolo Paolo ha scritto che Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori per lo Spirito Santo, ma questo lo ha detto per coloro che avevano posto la loro fede incondizionata in Dio. Quindi, caro ascoltatore, non ti resta che fare questo passo. Se tu ami Dio, se lo vuoi amare veramente, ubbidirai al comandamento di credere in Lui, dopodiché riceverai lo Spirito Santo. Solo allora desidererai e sarai capace di amare il prossimo come ami te stesso.